La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Buon sabato, buon weekend, buon 8 marzo a tutte le nostre ascoltatrici. Questa è La Rosa Purpurea, l'appuntamento con il cinema di Radio 24 che cade proprio sabato 8 marzo, perché il calendario ha voluto così e quindi, come dire, sarà una puntata assolutamente uguale alle altre, nel senso che il cinema poi è quello che è. Certo, il cinema risente, assorbe le atmosfere esterne. Questa è una settimana forse con un profilo più femminile, ma insomma sappiamo che le donne sono per tanti momenti della settimana il grande pubblico del cinema, quindi questo per noi non è assolutamente una novità. Certo non è molto femminile, diciamo così, proprio nel suo impianto il primo film di cui vogliamo parlarvi questa settimana, ovvero 300, L'alba di un impero. Torna nei cinema italiani la grande saga fumettistico epica di Zack Snyder, con il film questa volta diretto da Noah Murrow, ma non è tanto importante in questo senso stabilire gerarchie, capacità, attori eccetera, quanto l'impianto generale che cerca di perpetuare quello che fu il successo del primo 300. Allora ascoltiamo la clip e poi ne parliamo. Leonida e i prodi 300 sono morti. Non ho già sacrificato abbastanza per il tuo sogno di una Grecia unita, Temistocle? Un re? Un marito? Vendichiamolo. Solo gli dèi possono sconfiggere i greci. Tu diventerai un dio re. Queste le ambizioni assolutamente non nascoste per quanto riguarda il film, insomma, che è assolutamente in pompa magna, ricordiamo, tratto dall'ultimo graphic novel di Frank Miller. Boris Sollazzo, ben ritrovato con noi qui alla Rosa Purpurea. Come dire, tutto già scontato o c'è qualcosa di cui sorprendersi ancora con 300? Ma tutto già scontato, perché l'immaginario ovviamente è quello del film di Zack Snyder, sebbene venga ripreso da un'altra novella di graphic novel di Frank Miller, che è Xerxes, e Murrow non fa mistero di voler copiare sanamente quell'estetica, anche perché non avrebbe senso fare il contrario. La battaglia è diversa, qui siamo concentrati non su Leonida ma su Temistocle, e di sicuro non rimarranno delusi gli appassionati del primo 300, perché si replica e si prosegue sulla stessa linea estetica ed etica che portava avanti il nostro Spartano. E alla fine ne viene fuori un film divertente, solido, che in fondo un po' femminile lo è, perché con quello sfoggio di pettorali sicuramente le donne non rimarranno deluse. Di sicuro non è un capolavoro della cinematografia mondiale, come non lo era 300 di Zack Snyder, però è uno di quei film che soprattutto agli appassionati divertirà, perché si ricrea quella situazione, quell'action bellico d'antan, con le stesse idee di regia e la stessa forza visiva che si fonda sulla sfida tra l'uomo e il dio Serse, appunto. Quindi c'è di sicuro da divertirsi in questo film, e in più c'è Eva Green, che è sempre un piacere vederla. E allora, questo per quanto riguarda 300, quindi qualche motivo di interesse, diciamo così, c'è, per tutto sommato si trova, per andare a vedere questo peplumone del terzo millennio. Andiamo a giocare insieme, perché come sempre noi vi regaliamo grande cinema da vedere in casa, in questo caso in formato DVD, con un film che dovete indovinare. Laggiù c'è il cupolone, certo che il cupolone si vede proprio da dappertutto. Guarda laggiù. Guarda laggiù, guardate anche voi laggiù e diteci di che film si tratta, scrivetecelo in una mail alla rosapurpurea@radio24.it, mettete il vostro nome, cognome e indirizzo, e i primi due ascoltatori che avranno indovinato di che film si tratta potranno ricevere a casa il DVD di questo film che sveleremo la prossima settimana e di cui vi faremo ascoltare un'altra traccia fra poco. Boris, è anche la settimana dell'uscita in sala, del ritorno in sala di Ferzan Özpetek con il suo nuovo film Allacciate le cinture. Ora, la presenza di Özpetek nei cinema italiani è sempre la presenza di un autore che comunque ha segnato un percorso importante del nostro cinema negli ultimi anni, anche se a mio modesto avviso negli ultimi film spesso girando anche un pochino a vuoto, forse non trovando più la mano felice dei suoi esordi e anche dei suoi primi film di peso popolare, penso per esempio alle Fate ignoranti. Allacciate le cinture, Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scichitano, i protagonisti insieme anche a Carolina Crescentini, la storia di una ragazza divisa fra due ragazzi che in modo diverso dimostrano nei suoi confronti un sentimento. Sentiamo la clip e poi ne parliamo. Silvia non è tornata a casa stanotte, c'è anche il cellulare staccato, che faccio? Chiamo la polizia? Sì, anche i pompieri. Intanto sbrigati che quella è sparita, tu sei in ritardo, io mi sto facendo il culo da sola. E poi ti prego, non essere ossessivo. Silvia, uno. Che cosa? Da quando? Da una settimana, me l'ha detto lei. E perché non l'ha detto pure a me, scusa? Che ne so, affari vostri. Senti, invece di ristrezzate, cambiati e inizia a lavorare. Tavolo 5. Sì. Papi, ho dati una mossa. Sì, sì, ora vado. Io ci convivo, Elena, c'ho più diritto di te. Questa è una prima clip di Allacciate le cinture. Avete sentito una scena, avete sentito Filippo Scichitano, che forse è uno dei motivi di interesse, anche perché consegnato dopo il grande successo di Scialla e poi anche il mezzo passo falso, se vogliamo, del film successivo, ha una sorta di prova del 9 rispetto alla sua versatilità e anche alla sua crescita, perché è un attore importante da tenere d'occhio. Boris, parliamo innanzitutto del film. Özpetek, che appartiene alla categoria dei suoi grandi successi, o Özpetek invece che ogni tanto però non riesce forse a portare a casa il risultato finale? Secondo me è la seconda che hai detto, parafrasando un noto comico nostrano, Corrado Guzzanti. Francamente è un Özpetek minore, molto minore, in cui forse il punto di interesse maggiore è proprio Filippo Scichitano, che dopo i due passi falsi del film con Francesca Comencini e il film Giovanni Lista Bianca come il latte, adesso ritorna a far vedere quello che ci aveva mostrato in Scialla. Lui fa l'amico gay, il migliore amico gay di Kasia Smutniak, e sicuramente ha uno spessore recitativo che si staglia in confronto ai suoi colleghi. Il resto è una storia d'amore, d'amicizia, di solidarietà, un po' alla Saturno Contro, di una comunità di affetti che si stringe attorno prima a un amore e poi a una malattia. Il film ha una prima parte, a mio parere, ben poco riuscita, che è quella forse più di commedia, più sentimentale, e una seconda parte più tragica, quella dedicata alla malattia di Kasia Smutniak, dove la Smutniak dimostra comunque di essere un'attrice molto interessante, che si rialza un po'. Il film si mostra nei suoi momenti migliori in alcuni episodi. Penso a quello di Paola Minaccioni, che fa la compagna di stanza in ospedale di Kasia Smutniak e che è molto brava. Devo dire che Özpetek riesce a tirar fuori da questa attrice i suoi migliori talenti. Per il resto però è un film abbastanza slabbrato, con una sceneggiatura incerta, con una fotografia e un montaggio di sicuro non straordinari. Verrebbe da dire una battutaccia, Allacciate le cinture, più che un titolo, un avvertimento, nel senso che per finire di vedere il film non potete che allacciare le cinture e tenervi fermi sulla poltrona. Purtroppo è così. Secondo me la felicità dei primi tre film di Ferzan Özpetek qui non si rivede, anche se forse si cerca più che in altre delle ultime opere del regista italo-turco. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, eccoci alla seconda parte della nostra trasmissione. Una proposta d'animazione che arriva dall'Europa e che forse ha una sorta di visione europea di un personaggio storico, amatissimo, più e più volte riproposto dal cinema, sin dagli anni dei 30, agli anni 50 con Johnny Weissmuller, poi andando avanti e poi con la Disney, e poi adesso con questo Tarzan in 3D di Reinhard Klos e Holger Tappe, per perpetuare una storia che questa volta viene ambientata più o meno ai giorni nostri. Che c'è lì? Aspetta, fermati! Ma cosa... Come ti chiami? Tarzan. 70 milioni di anni fa, la Terra fu colpita da un oggetto extraterrestre. Con l'energia potenziale contenuta in questo frammento... Per me. Alimenteremmo tutta l'Iscosta per un mese. Immaginate con l'intera montagna. Finché ci sarò io, tu e la tua famiglia e questo paradiso meraviglioso sarete in pericolo. E allora, come dicevamo, la storia è quella, innegabilmente, il ragazzino, come dire, che cresce con le scimmie, la bella figlia, in questo caso di un miliardario anche piuttosto spregiudicato e che mette a rischio l'ambiente del mondo, che se ne innamora, e insomma, quello è, non ci interessa tanto stabilire come sia stato trattato, è un Tarzan assolutamente per famiglie, per tutti, per i bambini, però Boris, quello che mi interessa è capire la sfida tecnologica, cioè l'Europa da tempo cerca di... colmare le distanze, di accorciarle quantomeno rispetto a quella che è la digitalità del sistema americano di fare cinema d'animazione in 3D. La settimana scorsa abbiamo visto l'esempio di Snowpiercer, per esempio, come l'Oriente stia in certi momenti colmando di fatto le distanze tecnologiche. Cosa traiamo? Che insegnamento traiamo? Qual è lo stato dell'arte guardando questo Tarzan? Ma lo stato dell'arte, secondo me, dell'animazione europea e la sfida tecnologica possono anche considerarsi vinte, nel senso che mi sembra che ci sia sempre meno distanza tra i mondi diversi del cinema per quanto riguarda questo campo di gioco. Certo, si fa fatica a capire a cosa potesse servire fare in 3D questo Tarzan, nel senso che non mi sembra che ci siano novità particolari né sotto l'aspetto tecnologico né sotto l'aspetto narrativo, se si esclude il fatto che magari Tarzan è una sorta di Batman, tra virgolette, figlio di miliardari morti in un incidente aereo. Lo sforzo di attualizzazione è anche interessante, anche in qualche modo giusto, perché bisognava trovare una via nuova, ma rimane un esercizio sterile all'interno della sceneggiatura, diventa un pretesto per cercare di fare qualcosa di diverso, e quindi alla fine sì, forse la cosa migliore di questo Tarzan è il fatto che è un film per famiglie che può consegnare questa storia eterna a un pubblico più infantile, a una narrazione più semplice, però insomma forse se l'avessero fatto o non l'avessero fatto non sarebbe cambiato molto. E Boris, per chiudere, il mio sconsiglio della settimana è senza ragionevoli dubbi un ragionevole dubbio, cioè lo trovo questo film un ragionevole dubbio, un film davvero sbagliato, telefonato, con una sceneggiatura che fa acqua da tutte le parti e che tutto sommato ormai non fa i conti. Lo ricordo, il cast è importante: Samuel Jackson, Dominic Cooper, per dire i due attori principali, la regia è di Peter Crowdins, però dicevo, un film che non fa il thriller, lo fa in maniera talmente telefonata da non fare i conti con le serie televisive che oggi superano abbondantemente il mood di film come questi. Ecco, in presenza di alcune serie che ormai spopolano e che hanno anche innovato il linguaggio del cinema sul grande schermo in un certo senso, che senso ha invece fare film come Un ragionevole dubbio? Non molto, devo essere sincero, perché andare nel campo del legal thriller e cercare di fare qualcosa di nuovo ha qualcosa di suicida da parte di registi e produttori, e questo lo conferma. Ragionevole dubbio non è nemmeno così scarso, è telefonatissimo, come dici tu, il Cooper che è un procuratore lanciato, un assistente procuratore lanciatissimo verso il successo, e che fa diventare un errore il classico effetto valanga, perché per cercare di mettere tutti i tasselli a posto ovviamente li scombina tutti, e poi si ritrova all'interno di un gorgo kafkiano da cui non riesce ad uscire, l'abbiamo visto e stravisto mille volte. E si fa veramente fatica, come dici tu, a capire come questo incrocio tra una brutta puntata di Law and Order e l'ispirazione di Dexter possa avere la dignità poi di finire sul grande schermo. L'avessero fatto 15 anni fa, 20 anni fa, forse poteva essere anche un film abbastanza interessante. Qui diventa francamente pleonastico. E questo è allora il nostro sconsiglio della settimana. L'unico ragionevole dubbio è quello appunto di non andare a vederlo. Grazie a Boris Sollazzo, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te, buon cinema. E allora adesso giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi, poi parliamo di un bel festival, sentiamo. Per una casa aristocratica, diciamo. Sì, sì, abbiamo un salone grande, sì. Sì, esatto. Facciamo bed and breakfast. Sì. E facciamo bed and breakfast. Fantastico, la rosa purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Questo è il film da indovinare, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere una copia in DVD per i primi due ascoltatori che indovineranno. Allora, dicevo, parliamo di un festival che si apre proprio oggi, l'8 marzo, per chiudersi la settimana prossima il 16. Stiamo parlando del Bergamo Film Meeting, giunto alla 32esima edizione, ormai un appuntamento fisso di questo momento della stagione, è come sempre un appuntamento di grande qualità cinematografica, con le sue retrospettive, con i suoi film e con la sua sala in Piazza della Libertà a Bergamo, sempre costantemente piena dalle 9 del mattino a mezzanotte inoltrata. E allora, anticipazioni sulla 32esima edizione, ne parliamo con Angelo Signorelli, che è il direttore del Bergamo Film Meeting. Angelo, ben ritrovato. Entriamo subito in quella che è la retrospettiva di quest'anno, dedicata a un attore tutto da conoscere, 24 film di Dirk Bogarde. Ma guarda, Dirk Bogarde fa parte un po' di una tradizione degli ultimi anni di puntare un po' l'attenzione anche su delle figure di attore che in qualche modo comunque hanno segnato certe cinematografie. Nel caso di Bogarde, la cinematografia inglese, soprattutto degli anni 50 e 60, che ci interessava ancora così per lustrare e indagare. Di Bogarde è stato un personaggio così molto interessante per la sua carriera, per le tappe, per come è diventato attore cinematografico dopo un'esperienza teatrale un po' travagliata, anche perché si racconta che durante gli spettacoli teatrali era talmente bello che le fan non si contenevano e quindi urlavano durante la rappresentazione Dir quanto sei bello, così. Allora lui si era un po' stufato di questa cosa qui e è passato al cinema. In realtà il cinema viene preso sotto la tutela della Rank e viene fatto un divo fin dall'inizio dei suoi primi film, dove interpreta personaggi giovani un po' devianti, un po' teppisti. Poi c'è l'ultima parte della sua carriera, lui ha fatto anche una decina d'anni senza recitare, dove collabora, poi interpreta film di grandi registi come Morte a Venezia e La caduta degli dèi di Visconti, Il portiere di notte della Cavani, Il Despair di un bellissimo film di Fassbinder, fino ad arrivare alla L'Alain René di Providence. Grazie Angelo Signorelli, direttore del Bergamo Film Meeting. Noi a questo punto andiamo a risolvere quello che è stato il nostro game della scorsa settimana. Bellissima, non è vero? Che cosa? L'aurora. Stupenda. Questo era il nostro game della scorsa settimana. Eravamo con George Clooney nello spazio per Gravity, che è stato il nostro film della settimana scorsa. Il Blu-ray era il nostro regalo. E allora andiamo a parlarne con il nostro Giulio San Giorgio, Film TV, redazione di Film TV, per raccontare un pochino la edizione in Blu-ray di Gravity. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, uno dei film che ha saputo magnificare la nuova tecnologia messa a punto nel cinema all'epoca del digitale, il film Esperienza, che ci ha portati nello spazio, uno di quei film che obbligatoriamente andavano visti sul grande schermo, alla prova dell'home video regge il colpo soprattutto nella versione Blu-ray 3D. Il riversamento ha una resa meravigliosa, ci sono 3 ore di extra dietro le quinte, approfondimenti sulla travagliata produzione. È marzo, ma già lo candidiamo come uno dei Blu-ray dell'anno. E allora, questo era Gravity, quindi il nostro game della scorsa settimana. Andiamo a dare un'occhiata ai palinsesti televisivi, Giulio, invece, perché abbiamo voluto scegliere un film italiano di qualche stagione fa che è diventato un po' fra un piccolo culto e un piccolo classico. Ci aspettiamo che Valerio Mieli, come dire, ce ne risforni uno a quell'altezza. Stiamo parlando di 10 inverni. Sì, 10 inverni su Rai Movie alle 12:10 di lunedì. È un piccolo gioiello su un ballo a due amoroso, la storia di questi giovani Camille e Silvestro che si trovano, si perdono e si ritrovano durante 10 inverni tra Venezia e Mosca, con due attori che nel corso degli anni hanno confermato il loro talento, Davide Riondino e Isabella Aragonese, e una regia, quella di Valerio Mieli, all'epoca 31enne, amorevole ma è scontata, capace di leggere i sentimenti nei silenzi, negli sguardi, nelle parole e nel paesaggio, una regia ben oltre la media del cinema italiano, per questo veramente un piccolo gioiello. E allora, grazie a Giulio San Giorgio per averci segnalato anche 10 inverni, lunedì 10 marzo su Rai Movie alle 12:10, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, ci resta solo il tempo di lanciare la terza e ultima tappa del nostro gioco per stabilire il più truffottiano dei nostri ascoltatori, che si porterà a casa un cofanetto con 11 film del grande François Truffaut che stanno uscendo ogni sabato col Sole 24 Ore in edicola. E allora, abbiamo una classifica già formata dopo le prime due tappe. Terza e ultima domanda del nostro gioco: dovete dirci a quale grande regista François Truffaut fece un'intervista passata alla storia e che ne ha consacrato poi davvero anche a livello editoriale il grande ruolo nel mondo non solo del cinema fatto come regista ma anche del cinema fatto come critico, che appunto François Truffaut era all'inizio. Allora, quale grande regista è legata l'intervista storica di François Truffaut? Scriveteci al nostro numero SMS 349-238-6666, scrivete anche il vostro nickname, diciamo così, per poter stabilire la classifica finale. Settimana prossima proclameremo il vincitore del cofanetto di François Truffaut, appunto con gli 11 capolavori del grande regista della Nouvelle Vague. Ricordo ancora il nostro SMS 349-238-6666. Ed è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a sabato prossimo, un saluto da Franco D'Assisti.